A bordo campo di Dario Ricci. Quando il calcio si declina con la parola crescita, ebbene lo sappiamo noi a bordo campo che ogni tanto ci andiamo a trovare qualche progetto interessante sui campi del cosiddetto calcio minore, che poi però in molti casi con alcune idee riesce a staccare di gran lunga anche il calcio di vertice. E allora parola crescita, dicevamo, non solo in campo ma anche nella vita, e quindi la società di calcio può diventare anche una seconda famiglia. È con questo scopo che l'Entella Calcio, club di prima divisione girone A della Lega Pro, la Virtus Entella, con sede a Chiavari in provincia di Genova, ha dato vita già da qualche stagione al progetto Tutor Lab, una struttura per i giovani calciatori provenienti da tutta Italia ma anche da fuori, una struttura ricavata da un vecchio convento che è diventata un po' la casa di questi calciatori che sviluppa certo le loro capacità calcistiche, ma non solo. Ne parliamo oggi proprio col presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi. Presidente, ben trovato a bordo campo. Buonasera a voi. Presidente, allora, so che l'idea di questo Tutor Lab è tutta sua. Come è nato questo progetto che poi si è concretizzato in questo convento foresteria che è ora la casa dei suoi giovani calciatori? Ma guardi, l'idea è nata da un'esperienza, e l'esperienza era un'esperienza di ragazzi minorenni abbandonati o comunque alloggiati in appartamenti in città senza un grande coordinamento e senza una importante tutela. Siccome io sento la patria potestà su questi ragazzi, perché questi ragazzi che provengono da diverse regioni dati dalle famiglie naturalmente per giocare al calcio, ma anche per essere educati, per continuare il loro percorso scolastico. L'esperienza che è comune a moltissime società, ecco, degli appartamenti in città non mi aveva fatto soddisfatto, perché mi sembrava che non esercitassimo a sufficienza appunto la nostra patria potestà. Sembravano un po' quindi abbandonati a se stessi, insomma. Abbandonati a se stessi, senza tutoraggio scolastico, in una condizione che non si addice a dei giovani minorenni. E quindi, l'occasione si è presentata perché c'è questa onlus molto importante nella nostra città, che è il Centro Benedetta Quarone, che aveva un antico convento nel quale svolge attività sociale di assistenza a disabili, anziani, e che aveva un'ala a disposizione vuota. L'Entella ha pensato che questa ala vuota poteva essere perfettamente adattata ad un convitto per questi giovani, che sono una ventina ormai, che potevano usufruire dei servizi del complesso, a cui veniva messa a disposizione anche un'attività di tutor scolastico per l'appunto, e così si è stabilito questo sodalizio col Centro Acquarone, che va avanti ormai da 5 anni e che ci ha dato grandi soddisfazioni. Perché, ecco, Presidente, mi lasci capir bene, quindi queste giovani stelle che saranno i campioni dell'oggi per l'Entella, del domani magari per il calcio italiano, sono nella stessa struttura alloggiati con convivendo di fatto con disabili e anziani. Beh, anche questo ci è sembrato una cosa educativa, nel senso che spesso questi modelli che i giovani hanno in testa del calcio, delle veline, eccetera, dimenticano che la vita è anche fatta purtroppo di persone che hanno bisogno, di sostegno che deve essere dato a queste persone che hanno bisogno. E noi abbiamo avuto degli episodi fantastici in questa storia. Ad esempio, il portiere dell'Entella, che oggi è il portiere titolare della squadra in Lega Pro 1, che ormai è con noi da 4 anni e che è un giovane perché è arrivato che non aveva 18 anni, si è trovato spontaneamente per sua scelta a fare assistenza a bambini down. E io trovo che questa sia stata uno dei migliori spot per la storia della nostra società mai avvenuto, perché questa cosa si è risaputa in città, e il fatto che senza che nessuno gliel'avesse chiesto, nel tempo libero il nostro Paroni si occupasse di questi bambini è stata una cosa ovviamente apprezzata da tutti. Si commenta da sola. Presidente, ci permetta anche di scherzarci un po' su. C'è invece stato qualcuno che ha provato a scappare dal vostro tutor lab in cerca di discoteche e divertimento? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il sistema e la tecnologia un po' ci aiutano per farmi le ramanzine di pramatica, perché loro hanno un badge e quindi quando rientrano, per entrare devono passare la loro carta magnetica sul badge e naturalmente tutti gli orari vengono debitamente registrati. Capita spesso, cerchiamo con buon senso di intervenire e di ricordare che vivere in un convitto di questo tipo comporta anche alcune regole di comportamento. La reazione delle famiglie di questi calciatori adolescenti, presidente, di fronte a questo vostro sistema, a questo vostro progetto? Beh, naturalmente molto positiva, nel senso che le famiglie sono consapevoli del fatto che la carriera calcistica è una carriera in cui si parte in mille e uno solo arriva. E quindi il consentire ai ragazzi che perseguono questo obiettivo così difficile di continuare il loro percorso scolastico con un tutoraggio continuo e assiduo è molto apprezzato dalle famiglie. Io sono molto orgoglioso di questo perché spesso questi ragazzi che vengono a giocare da noi sono già stati contattati da altre società, magari di categorie anche superiori alla nostra, e devo dire che le famiglie ci fanno sempre notare, e questo è l'orgoglio, che questa struttura, società di Serie A, non ce l'hanno. Eh sì, insomma, viene da dire come si stava bene a Chiavari. Fra poco entreremo proprio nelle mura del Tutor Lab dell'Entella. Intanto grazie al presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, per essere stato nostro ospite qui a Bordo Campo. Grazie a voi, saluti a tutti. E allora abbiamo sentito dalle parole del presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, come è nato il progetto del Tutor Lab. Ora entriamo in quello che di fatto è il convitto che ospita i giovani talenti della Virtus Entella e lo facciamo con il loro tutor, Massimo Russo, che è proprio colui che accompagna questi giovani calciatori nella loro quotidianità. Benvenuto Massimo a bordo campo. Innanzitutto grazie a voi per l'accoglienza e accetto questo benvenuto con tutto il cuore e con tutto l'amore col quale stiamo facendo questo lavoro, avvalorato anche dal fatto che la soddisfazione della prima squadra che si giocherà la Serie B con Lecce ci dà la forza per andare avanti. Sì, hai detto bene, convitto, convinto. Effettivamente gli 11 ragazzi che noi seguiamo a tempo praticamente pieno sotto il nome di progetto Tutor Lab, grazie alla collaborazione della professoressa Rossella Gregori, abitano veramente in un ex convento adibito adesso a convitto, dove c'è un piano che noi abbiamo chiamato Casa Entella, dove i ragazzi dormono, mangiano e sono tutorati in tutto il loro percorso, che non è solamente un percorso calcistico, anche se non dobbiamo dimenticare che il core business logicamente della società è il calcio, ma li seguiamo proprio nella vita di tutti i giorni, in modo particolare la scuola. Ecco Massimo, raccontaci proprio un po' la giornata tipo di un calciatore dell'Entella. Ma guarda, la giornata tipo merita una riflessione. Prima di una giornata tipo, come noi accogliamo un ragazzo con un colloquio alla famiglia, con un colloquio al giocatore per vedere quali sono le motivazioni scolastiche, il percorso scolastico che gli vogliamo far fare. Ecco, questo è molto importante perché Chiavari è una città di studio, una città dove ci sono tutte le scuole, noi abbiamo la possibilità per fortuna di indirizzarli. Visto i buoni risultati, abbiamo anche, come dici giustamente tu, fatto un po' una giornata tipo che prevede innanzitutto colazione al convitto al Centro Benedetta Quarone sotto la tutela dei nostri medici che logicamente fanno mangiare al ragazzo quello che serve per far sì che possa andare tranquillamente a scuola e poi espletare tutte le attività calcistiche. Il ragazzo va a scuola da solo, noi controlliamo che i ragazzi vadano effettivamente a scuola, d'accordo con i vari istituti scolastici, poi loro rientrano all'Acquarone per il pranzo delle ore 13.30 e poi alle 15.30 gli allievi nazionali, i giovanissimi nazionali vanno a fare allenamento e quelli della Berriti lo fanno in un'ora più tardi e poi ritornano chiaramente dopo l'allenamento all'Acquarone, mangiano e si ritirano nelle loro stanze, che sono stanze e camere, come le vogliamo chiamare, a due posti. Ecco, e noi abbiamo poi colloqui con i professori settimanalmente, colloqui con le famiglie, e questo ci impegna a tempo pieno. E la cosa bella è che quest'anno ne abbiamo 11, grazie al lavoro grandissimo che abbiamo fatto, il prossimo anno la società ce ne darà ben 16, e questo testimonia una volta tanto la bontà del nostro lavoro. Ecco. Ti chiedo ancora, Massimo, il presidente Gozzi simpaticamente ci ha rivelato che ogni tanto qualcuno di questi ragazzi dovete andarlo a riacchiappare per Chiavari, perché provano a sfuggire alle vostre benevole grinfie per qualche sana serata in discoteca. Ecco, ci sono stati anche dei tentativi di corruzione nei tuoi confronti? No, no, assolutamente, abbiamo instaurato un rapporto paritario, loro sanno fin dove possono arrivare, purtroppo sappiamo che di questi ragazzi non tutti faranno i calciatori professionisti e vogliamo proprio col cuore in mano che quando loro ritornano alle loro città di appartenenza, alle loro squadre in settori dilettantistici e non professionisti abbiano un nostro ricordo che deve rimanere dentro di loro a livello proprio formativo, e siamo molto contenti, te lo dico molto schiettamente, di questo lavoro che stiamo facendo, che ti ripeto facciamo con tanto tanto e ancora tanto amore. E allora in bocca al lupo alle fortune calcistiche della Virtus Entella, ma soprattutto al grande lavoro che Massimo Russo, i suoi collaboratori, il presidente Gozzi stanno facendo per costruire non solo i calciatori ma direi gli uomini di domani. Grazie ancora a Massimo Russo, responsabile del Tutor Lab della Virtus Entella, per essere stato nostro ospite a bordo campo. Grazie a voi dell'attenzione e buon lavoro a tutti voi di bordo campo. Buona serata a tutti. A bordo campo. Un progetto di uno stadio senza barriere in Lega Pro. Questo è l'obiettivo che la Lega Pro, la ex Serie C, si sta dando e che sta coinvolgendo tante società di questa categoria molto vitale, molto propositiva. Lo sapete, a bordo campo spesso va in Serie C, lo fa con grande entusiasmo, perché andiamo a scoprire un po' i segreti del calcio cosiddetto minore, ma che poi rappresenta gran parte del calcio e della passione per questo sport degli italiani. E allora ci sono diverse società in Lega Pro che si sono già attivate per portare avanti il progetto degli stadi senza barriere, per istituire, per creare un dialogo tra i calciatori e i loro tifosi su quello che è il modello inglese. Alcune di queste società, beh, Catanzaro, Cremona, Martina Franca, Perugia, Pavia, ma ci fa un particolare piacere trovare in prima fila in questo progetto, come capostipite direi di questa idea, proprio la società dell'Aquila. Sì, quell'Aquila che lo sappiamo bene, dal 6 aprile 2009, da quel terremoto, combatte ogni giorno anche per il proprio diritto allo sport, e che, ebbene, proprio attraverso il calcio, e per carità non dimentichiamo il grande rugby aquilano, ogni giorno prova a compiere questa risalita, e lo fa ora con questa idea, con questo progetto in cui proprio l'Aquila Calcio è in prima fila. Allora, benvenuti ai nostri ospiti, a partire dal presidente dell'Aquila Calcio, Corrado Chiodi. Ben trovato, presidente, a bordo campo. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera. Allora, presidente, come vi è venuto in mente di essere proprio voi, no, che insomma di problemi e problemucci ne avete affrontati tanti in questi anni, a essere in prima fila per realizzare questo nuovo stadio che prenderebbe il posto del leggendario Fattori? Io in merito ringrazio la Lega Pro, ecco, che ci ancora per una volta è attenta all'Aquila, e noi siamo veramente onorati di portare avanti questo progetto. Saremo i primi di categoria e quindi è una cosa importantissima, e per noi diciamo è di essenziale importanza avere un altro progetto a fianco, che è quello del Support Trust, perché come sapete tutti uno stadio senza barriere ha bisogno di una tifoseria educata e giusta. Noi abbiamo una giusta tifoseria e quindi magari, ecco, si sposa bene con il progetto dello stadio senza le barriere. È stato soffertissimo perché il CONI e quant'altro, l'osservatorio, insomma, ci davano qualche problemino, anche perché noi lo stadio è già esistente e quindi andava leggermente modificato per le esigenze dello stadio. Ecco, ci spieghi bene, Presidente, quindi come si interverrà sul Fattori o c'è un progetto nuovo? No, no, c'è un nuovo stadio, che era lo stadio Acquasanta, che era stato realizzato per l'Aquila Rugby. Dopodiché il progetto è stato cambiato e quindi con grande soddisfazione è stato affidato all'Aquila Calcio. Chiaramente diciamo che l'impianto non era preposto per un progetto così importante che è quello lo stadio senza le barriere e quindi deve essere adeguato. Adesso i lavori sono in corso, vanno avanti, ma nostro malgrado, perché insomma per noi è di vitale importanza averlo subito, un po' lentamente, però confidiamo nell'impresa, che sono dei cari amici, in modo che finiscano prima del dovuto. Insomma, che l'impresa faccia l'impresa in tutti i sensi. Presidente, senta, a parte le mie battutacce, che tipo di impianto sarà? Sarà un impianto polifunzionale, immagino, magari per ospitare anche le altre realtà sportive dell'Aquila, oppure esclusivamente dedicato al calcio? Quanti spettatori, quanti posti contate di avere? Allora, i posti sono 7.600, sarà esclusivamente per l'Aquila Calcio. E quindi non ci saranno altre attività, o perlomeno ci saranno altre attività, ma sempre organizzate dalla nostra società, perché noi abbiamo intenzione di usarlo anche per altri scopi, cioè purché ci sia aggregazione, purché ci sia gente, purché ci siano degli spettacoli o qualsiasi evento, l'importante è che porti della gente a stare insieme, perché qua all'Aquila sappiamo tutti che purtroppo abbiamo perso ogni punto di riferimento in merito. Non è che allora, Presidente, però il rugby a questo punto si arrabbia, no? Nella maniera più assoluta, con loro abbiamo un ottimo rapporto e quest'anno siamo veramente dispiaciuti del fatto che purtroppo ci hanno dato questa brutta notizia, che è quella della retrocessione. Io invito i ragazzi e la società, insomma, ad essere forti. Purtroppo il momento non è stato positivo, di andare avanti, e io continuo a ripetere: siamo rami dello stesso albero, siamo aquilani e quindi prima di tutto c'è la sportività, quindi a prescindere che siano due sport diversi, per me è stato un grosso dispiacere la retrocessione dell'Aquila Rugby, quindi io penso che loro non siano per niente dispiaciuti che ci diano lo stadio dell'Acqua Santa, anche perché loro poi rimarrebbero unici proprietari o gestori del Fattori. Certo, che è un po' il loro campo storico, al di là pure delle vostre vittorie. Dicevamo del tema supporter trust, che anche qui a Bordocampo abbiamo affrontato più volte, davvero un fenomeno interessante non solo a livello italiano quanto europeo. E allora al nostro secondo ospite, il vicepresidente dell'Aquila Calcio, Massimo Mancini. Signor Mancini, insomma, se arriva... Buonasera a tutti. Ottima l'idea dello stadio senza barriere, ancora di più se nella gestione allargata della società potessero entrare i tifosi, no? Chiaramente la parte sana del tifo, è questo a cui si rivolge il progetto del Supporter Trust. Noi abbiamo tutti i tifosi sani. Ecco, infatti, diciamo che all'Aquila il problema non c'è. Non faremo senza barriere. E poi, in ogni caso, avere questa è un'innovazione che comunque fa parte del gioco del calcio, perché il gioco del calcio senza i calciatori, i tifosi e diciamo una società non avrebbe ragione di esistere. Quindi è giusto che partecipino, è giusto che ci siano, ci stanno accanto, perché certe decisioni e certi impegni dobbiamo prenderli insieme, non vogliamo sbagliare. Questo è un esempio e deve essere un esempio vincente. Direi anche che sorprende che sia proprio la Lega Pro, per alcuni aspetti, il campionato più vitale in questo senso, no? Anche la B sotto la presidenza Bodi, e non ho alcuna remora a dirlo, sta dando segnali di cambiamento e di innovazione, però la Lega Pro riesce in qualche modo anche a sorprendere sotto questi aspetti. Diciamo che la spinta viene sempre dal basso, quindi non dobbiamo essere, diciamo, innovatori, perché più si va in alto più è difficile, ci sono troppi interessi. Questi sono rischi che noi possiamo prenderci, magari una grossa società, no, però possiamo essere l'esempio, un esempio che funziona e che può essere da stimolo poi per tutti i campi di calcio italiani, perché sarebbe proprio bello avere un pubblico qualificato, un pubblico all'altezza di un evento che certamente ci piace a tutti vincere, ma è anche bello da, soprattutto bello da vedere, bello da vivere, da condividere. Quindi cioè, deve essere forse il giusto modo per andare allo stadio. Educhiamo un pochino anche un po' i maleducati. Però proviamoci almeno, proviamoci a partire dalla Lega Pro. In chiusura torniamo dal presidente Chiodi. Presidente, ci spieghi un po' quanto viene a costare questo scherzetto dello stadio senza barriere, perché immagino che sia un impegno significativo per un club come il vostro, e qual è la sinergia che si sta sviluppando con le istituzioni, col credito sportivo, come state lavorando, se riuscite a far sistema? Certo, sappiamo tutti che la responsabilità oggettiva è quella della società, qualsiasi cosa succede all'interno dello stadio, quindi noi chiaramente faremo attenzione molto a quello che sarà la sicurezza. Infatti ci sarà un circuito di videosorveglianza, ci saranno dei doppi tornelli e ci sarà un numero superiore di steward. Questo per noi è chiaramente un costo, però fa parte del gioco. In questo momento noi abbiamo bisogno di portare avanti il progetto perché è di fondamentale importanza, e poi vabbè, lo vorrà dire che faremo un po', stringeremo un po' la cinghia in modo che abbiamo magari delle entrate diverse. E allora un grazie agli amici dell'Aquila Calcio, in bocca al lupo per il progetto del nuovo stadio senza barriere, e vi aspettiamo presto qui a Bordo Campo per continuare a seguire questa splendida idea che ci arriva dall'Aquila. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltarci dal sito web www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. L'appuntamento come sempre è per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Una buona giornata da Dario Ricci.